Allora, lo sappiamo, è successo qualcosa di importante in Grey's Anatomy. So che non rovino nessuna sorpresa, ne parleremo tra poco. Adesso però ci sono tutti gli aggiornamenti per il traffico, la situazione del traffico su strada e autostrada, e poi saremo ancora insieme col Sabato del Villaggio. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presento il Sabato del Villaggio. E ci ritroviamo insieme con il Sabato del Villaggio. Abbiamo ascoltato poco fa l'incontro con Richard Gere, ho avuto la fortuna di incontrarlo al Festival di Taormina, dove sono stata nei giorni scorsi, e anche qui qualche incontro al Festival di Taormina per i prossimi minuti del Sabato del Villaggio. C'era un'attrice molto amata, e non lo dico a caso, lo dico perché quando ho scritto su Twitter che stavo per intervistarla, i fan hanno cominciato a tempestarmi di messaggi. Beh, entriamo un po' in atmosfera. Entriamo un po' in atmosfera di questa grande serie televisiva. Aspetti. Signora. Aspetti, ho detto. If I just lay here, would you lie with me? Just forget the world. Dalek. I don't quite know. Dalek. E la tua storia qual è? Non ho una storia, sono solo una ragazza in un bar. E io un uomo in un bar. Lo vuoi rifare? Io ti amo, Meredith Grey, e voglio passare il resto della mia vita con te. Sei tu l'amore della mia vita. If I lay here, if I just lay. Pieno di pesci, ha risposto così Ellen Pompeo, sorridendo a chi le chiede cosa sarà di Grey's Anatomy. Io lo so che qualcuno vorrebbe che non ci fossero degli spoiler, delle anticipazioni, ma questa notizia ormai è apparsa in tutti i giornali. Lo sappiamo cosa è successo a Grey's Anatomy. Facciamo che se non lo sapete in questo momento, per qualche secondo vi tappate le orecchie e non ascoltate. Lo sappiamo che la dottoressa Meredith è rimasta sola, che è morto il dottor Shepard. Ovazioni per lei al Festival di Taormina, perché Ellen Pompeo ha incontrato i ragazzi in una masterclass che è stata una lezione di TV e di vita, e quando si parla di questa perdita per il suo personaggio, perdita che in Italia abbiamo visto in televisione lo scorso 8 giugno, se non ricordo male, capisce che gli appassionati della serie hanno sofferto davvero, e questo abbiamo chiesto a Ellen Pompeo. Lei ha detto: sono una raccontatrice di storie, sono una storyteller. Lei sente quanto questo è importante per le altre donne? Sì, credo che sia molto importante, perché penso che molte donne starebbero zitte di fronte al problema della disuguaglianza, e in questo modo nulla cambierebbe. Per ottenere cambiamenti e progressi dobbiamo prendere posizione per quello in cui crediamo, parlare di quello in cui crediamo e non avere paura. Lei ha sensibilizzato molte persone sull'importanza della medicina, e ha anche dato la voglia ad alcune ragazze che gliel'hanno detto di diventare medico. Fantastic. Very humbled. È fantastico. Mi sento molto colpita da questa cosa, quasi in imbarazzo. È una cosa che mi onora, sentirmi dire che molte persone hanno deciso di intraprendere la carriera di medico ispirate da Grey's Anatomy. È una cosa di cui sono molto grata. And I'm very grateful for that. E dell'ansia per la sua decisione di restare o no, e del fatto che le persone hanno partecipato alla sua perdita come se fosse reale, cosa pensa? I'm very grateful that people care so much. Sono molto grata del fatto che alla gente importi così tanto. Sono felice che abbiano gioito, abbiano sofferto, si siano arrabbiati, perché significa che a loro importa davvero, ed è per questo che questa serie va avanti da così tanto tempo, perché la gente si è davvero affezionata. Sono felice quando si arrabbiano, significa che a loro importa davvero. Però lei ha detto a quelli che sono preoccupati per il fatto che la dottoressa è rimasta da sola, ci sono tanti pesci nel mare. Well, yes, I mean, you know, you can't, life goes on. Beh, sì, dai, la vita va avanti. Se la perdita della persona amata significa che ti chiudi in te stesso e muori anche tu, Non può andare così la storia. Se perdi la persona che ami, anche se ti sembra impossibile, devi alzarti e andare avanti. Le persone reali hanno bambini di cui occuparsi, lavori da portare avanti. Devi alzarti di fronte alla tristezza e la vita continua. You have to get up in the face of sadness and life continues. Ma lei si è mai innamorata di una serie televisiva come questi ragazzi si sono innamorati di Grey's Anatomy? When I was young, quando ero giovane, mi piaceva una serie di David Lynch chiamata Twin Peaks e la amavo. Direi che era la mia preferita da ragazza. Now it's coming back. Yes, now it's coming back. Sì, sta tornando. Quanto sono vecchia. That's how old I am. E questa era Ellen Pompeo, ma siamo anche andati a curiosare nelle novità della prossima stagione. Ad esempio, uscirà una nuova commedia di Fausto Brizzi. È un film che parla di dinosauri. No, in realtà non è un film sui dinosauri, ma quasi, perché faccio un film che si chiama Forever Young e parla del fenomeno dei finti giovani, un fenomeno che ci circonda, insomma, in qualche modo oggi. Quasi tutti tra i 20 e i 70 anni credono di avere la stessa età, e l'età è 20, non è 70, e in qualche modo ci vestiamo, ci atteggiamo e cerchiamo di inseguire il tempo perduto. In questa stagione arrivano sempre dei piccoli flash, delle sinossi dei film, e del tuo Forever Young in rete si trova sempre la frase: parlerà di Peter Pan, Cougar e MILF. È vero o è una semplificazione che qualcuno ha tirato fuori in qualche modo? Ma in realtà è una semplificazione, perché Peter Pan proprio non ci saranno, perché Peter Pan di solito ha un'accezione di immaturo, invece queste non sono affatto persone immature, sono persone pericolose, i Forever Young, nel senso credono davvero di essere giovani, di poter indossare quegli abiti senza essere ridicoli e di poter fare quello stile di vita senza morire con un coccolone. E li prendo in giro neanche troppo bonariamente, perché purtroppo ne faccio un pochino parte della categoria, cioè continuo a fare le cose che facevo a 20 anni, ma ne ho più del doppio. E le cougar ci stanno, sì, ovviamente, nel film, perché non ti posso ancora dire l'attrice che fa la cougar per motivi contrattuali, però è un'attrice che quando la sentirai tu dirai: beh sì, certo, chi se non lei, insomma. Però di quelli che sappiamo già, sappiamo Teotocoli, sì, sappiamo Stefano Fresi, c'è Bentivoglio che fa torna a fare proprio una commedia, Fabrizio, in cui fa un cinquantenne che ha una moglie di 22 anni, una compagna di 22 anni, e la tradisce con una di 50. La scelta di Teotocoli non è scontata al cinema? No, non lo è, però se tu pensi... chi può essere un settantenne in forma smagliante oggi che sia comico? Ma l'ho detto che farà il maratoneta? Sì, esatto, si sta allenando, sta facendo cose, insomma, e se pensi che... Guarda, pensa e dici: ah, fammi pensare, chi chiamo come settantenne? O Alini Morandi o Teocoli? Sì, Morandi è una scelta ovviamente più da maratoneta che da comico, poi anche se alcune cose che pubblica su Facebook sono abbastanza comiche, insomma. Ehi ragazzi, oggi ho piantato il basilico, eccetera, mi fa molto ridere. Mia moglie mi ha messo a contare i piselli, ehi. Però pensa che Morandi era nella casting list. Ah, vedi, allora non ero così lontano. No, affatto. Vedi. Quando lo aspettiamo Forever Young? Uscirà a marzo, insomma, passato lo tsunami Zalone cominceranno a uscire le commedie, quindi gennaio non vale, insomma, gennaio è Zalone, è stato risoprannominato, cioè quest'anno è Zalone, febbraio, Zalone, febbraio, marzo, non ci aprile. Sono sale a gennaio. No, gennaio non si può uscire, e poi dopo cominceremo a uscire. E per concludere con le previsioni della prossima stagione, a Taormina abbiamo incontrato anche Francesca Archibugi. In tanti quest'estate nelle arene estive, le adorate arene estive, recupereranno la visione del suo Il nome del figlio. Non si parla mai coi registi di chi vede i film d'estate, ma è quasi una nuova stagione per i film già usciti. Beh, se, a parte che la Lucky Red, la produzione, mi ha chiesto che è proprio Il nome del figlio, è stato chiesto, prenotato dalle arene tantissimo, quindi è vero questo che dici. Avrà proprio una seconda stagione molto importante, perché mi dicevano appunto che non gli capitava da anni un film così prenotato. E niente, sono contenta perché è bellissimo, si può fumare, si può mangiare, cioè si ha un rapporto molto così all'aperto con i film. Se l'impianto è buono, lo schermo è buono, il suono è buono, cosa c'è di più bello che andare al cinema all'aperto? Però per te è estate di lavoro? Sì, sì, sì, per me è sempre lavoro, perché io se non lavoro mi ammalo, mi appassisco, per me tutti i giorni sono giornate di lavoro. E quindi sì, sto lavorando, lavorerò tutta l'estate, sto scrivendo. Devo scrivere una serie per la televisione, proprio una serie, una lunga serialità, 6 puntate che sono praticamente come 6 film da 100 minuti. E su un soggetto mio che hanno accettato, e quindi è la prima volta che faccio questa esperienza. Sono molto contenta ed eccitata perché penso che la televisione in questo momento sia un progetto drammaturgico molto molto interessante in tutto il mondo, in Italia ancora un po', a parte certe cose interessanti che ha fatto Sky invece un po', però è un soggetto originale, cioè un'idea mia che è stata accettata e quindi che sto sviluppando come serialità, quindi è completamente un'altra cosa, un altro progetto di scrittura con una bella possibilità di approfondire personaggi, diciamo sarà sempre una storia di personaggi, vicende umane, con lo stesso tono, in parte drammatico, in parte di commedia. Nell'oggi? Nell'oggi, ambientato ai giorni nostri. Quindi sono contenta e poi sto scrivendo il prossimo film contemporaneamente con Francesco Piccolo, che comunque girerò nel 2016-2017. E quindi c'è già qualche consiglio per la prossima stagione cinematografica? Adesso si scrivono e si girano i film, come abbiamo sentito i tempi sono questi. Fausto Brizzi dice che uscirà dopo gennaio-febbraio, perché appunto arriverà ai primi di gennaio tradizionalmente, un anno sì, un anno no, accade così, il film di Zalone, che spazzerà via tutte le sale, che vi piaccia o non vi piaccia, succederà così ai primi di gennaio del 2016, perché già si cerca di capire come sarà la prossima stagione cinematografica. Adesso abbiamo una breve brevissima pausa, ma tra poco ci ritroviamo con in studio il nostro Enrico Pagliarini, ma avremo anche un ospite, perché le novità che riguardano il mondo del lavoro che sono state presentate in questi giorni hanno anche, e vogliamo sapere come, una ricaduta sulla tecnologia. Parleremo di privacy sui luoghi di lavoro, un argomento che a me interessa molto, mi incuriosisce molto, anche perché le cose non mi sono per niente chiare, quindi ne approfitterò anch'io per capirne di più. Ci ritroviamo tra poco, una breve pausa, e poi saremo ancora insieme con il Sabato del Villaggio. State ascoltando un programma offerto da Bomi. Si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Il Sabato del Villaggio. Rieccoci insieme dopo questa abbuffata di cinema, televisione, un po' di incontri. Nella prima parte abbiamo sentito le interviste a Richard Gere, Alain Pompeo, Fausto Brizzi, Francesca Chibugge. Abbiamo fatto un po' di speciale rispetto a quello che abbiamo visto in questi giorni al Festival di Taormina. Ma adesso voltiamo pagina, perché nel nostro Sabato del Villaggio abbiamo tanti argomenti, tanti liberi consigli per il fine settimana. È il momento della tecnologia. In studio c'è già Enrico Pagliarini, però aspetta Enrico, senti come ti accolgo oggi. Sentiamo. Qualcosa di più dei Dire Straits in generale proprio? Beh, non so, i Pink Floyd? Ah, la prossima volta allora i Pink Floyd, cioè, va bene, no, qui cose, stiamo vette inarrivabili. Sì. Private Investigations, andiamo a farci gli affari degli altri o forse a evitare che gli altri si facciano gli affari nostri, non lo so, sono punti di vista. Complicato, allora... Noi parliamo spesso di smartphone anche perché buona parte degli italiani hanno uno smartphone in mano. Sapete benissimo che molte delle cose che facciamo con gli smartphone possono essere tracciate, a volte anche perché noi diamo il consenso che ci tracciano, facciamo accetta, scarichiamo un'applicazione e diciamo accetta, non sappiamo, sì, con un che po' cosa di leggerezza, magari non sappiamo che cosa accettiamo, e capita che a volte queste applicazioni si facciano veramente gli affari nostri. Devo dire che molto spesso questi affari nostri se li fanno dei computer, dei sistemi automatici, quindi non è che ci sono delle persone dietro. Comunque questo tema è sempre di attualità, ma è tornato di attualità in modo particolare questa settimana, collegato ad un provvedimento di legge e relativamente al mondo del lavoro. Se è vero che buona parte degli italiani hanno uno smartphone, un tablet, un computer, è altrettanto vero che molti lavoratori hanno questi strumenti assegnati dall'azienda perché sono strumenti di lavoro. Allora, dovete sapere, molti di voi avranno sentito sicuramente nominare le due parole Jobs Act. In questi giorni, qualche volta sì. Sì, ma anche quando c'è stato il primo provvedimento relativo al Jobs Act, cioè la prima parte della riforma del mercato del lavoro, che di fatto ha tagliato l'articolo 18 per i nuovi contratti. Allora, questa è la riforma del mercato del lavoro, con questa mania di Renzi di chiamare le cose all'inglese, che non mi sembra, insomma, quando si parla di leggi si parla di cose serie, allora un po' meno marketing potrebbe essere utile. Comunque, allora, il Parlamento ha delegato il governo a riformare le norme che riguardano il mondo del lavoro. È in discussione un decreto legislativo che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri e che diventerà quindi legge, non lo è ancora, ma diventerà legge, che riguarda una parte della norma sul lavoro, in modo particolare l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, ricordiamo, norma del 1970, che riguarda i controlli a distanza. Allora qui alcuni, leggendo questa norma, hanno cominciato a dire, soprattutto i sindacati, si sono preoccupati perché si aprirebbe, è stato definito un grande fratello, lo dobbiamo dire, esatto. Il ministero dice che cambia poco o nulla. Anche perché se allora, questa legge aveva più di 40 anni, forse doveva essere aggiornata, certo, con i nuovi strumenti. Sicuramente non era nemmeno prevista la presenza dei telefonini come esatto. Allora, insomma, per capirci qualche cosa, per capire se cambiano le cose o se magari molte delle cose che noi crediamo cambieranno sono già attuali, certo, vengono già, certo, fatte o le aziende le possono fare. È con noi Luca Bolognini, che è il presidente dell'Istituto Italiano per la Privacy, è un avvocato esperto di privacy. Benvenuto, buongiorno. Grazie, buongiorno avvocato. Allora, subito vogliamo sapere se cambia o non cambia, cioè ha ragione il ministero che dice cambia quasi nulla, o invece hanno ragione quelli che dicono cambiano molte cose. Beh, insomma, qualcosa cambia, e cambia anche qualcosa di rilevante. Il tentativo di modificare questo articolo 4 dello Statuto dei lavoratori da parte del governo, vedremo se andrà effettivamente in porto, ma per come sta scritto adesso, quindi nel testo della bozza del decreto legislativo, un impatto ce l'avrà. Avrà che tipo di impatto? In sostanza un impatto semplificativo per i datori di lavoro, nel senso che sarà più semplice per il datore di lavoro sottoporre a controllo gli strumenti tecnologici dati in uso ai dipendenti, ai lavoratori, e strumenti tecnologici che sono strumenti utilizzati per eseguire la prestazione lavorativa o comunque nel contesto lavorativo. Quindi, ad esempio, stiamo parlando di telefonini aziendali? Per esempio, computer o sistemi utilizzati da questi telefonini o da questi computer, quindi per esempio il server aziendale, altri sistemi di funzionamento informatico dell'azienda. Ecco, per installare sistemi di questo genere, che in re ipsa, in se stessi, controllano e generano log, generano eventi, tracciamento di quello che fanno i lavoratori, non sarà più necessario, come invece è oggi, cercare un accordo sindacale o un'autorizzazione della direzione territoriale del lavoro. Quindi questa sarà una semplificazione molto importante, ma diciamo che questa semplificazione è un po' la punta dell'iceberg, perché ci saranno altri impatti. In particolare sarà legittimo utilizzare questi controlli, sempre con strumenti tecnologici utilizzati dal lavoratore per eseguire la prestazione lavorativa, sarà legittimo usare questi controlli anche per valutare la qualità della prestazione lavorativa, cosa che oggi è tassativamente vietata dal comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. E insomma, questo un impatto ce l'avrà, nel senso che io potrei venire da lei e dire: ma come mai a quell'ora ha ascoltato quella canzone dei Dire Straits invece di lavorare? E poi magari c'è una buona motivazione, perché era un qualcosa di fatto all'interno delle mansioni o comunque della prestazione lavorativa, quindi perfettamente corretto. Però un po' di inquietudine a questo tipo di controllo più libero da parte del datore di lavoro la può comportare. Ho un dubbio ancora più, non pensiate che sia paranoico, lo sto pensando così in generale, perché lei ha utilizzato il sostantivo tracciamento e mi viene in mente, ma addirittura sarebbe possibile utilizzare i sistemi di localizzazione, di geolocalizzazione dei device? Quello sarebbe veramente inquietante. È bene a notare questa cosa. In realtà il tracciamento comunque non potrà essere indiscriminato. Perché? Perché è vero che arriva questa regola che dice: il datore di lavoro può, basta che lo dica, basta che metta un'informativa, basta che lo dica in una policy, i lavoratori può sottoporre a controllo per tutte le finalità relative alla prestazione lavorativa questi strumenti tecnologici. È vero che dirà questa norma, però è anche vero che resta in piedi un potere regolamentare, anche interpretativo autentico, del garante privacy. Il garante privacy ben difficilmente considererà, anche dopo l'avvento di questa nuova norma, legittimi i tracciamenti dei contenuti delle navigazioni web, per esempio, le analisi sistematiche delle email dei lavoratori, sistematiche, quindi non in caso di stretta necessità, ma proprio in maniera magari anche automatizzata, difficilmente saranno considerate legittime in futuro per la sola modifica di questa norma. E altrettanto si può dire della geolocalizzazione dei lavoratori. Ecco, anche su questo si applicherà una disciplina speciale: il lavoratore non dovrebbe essere geolocalizzato, e anche con l'avvento di questa nuova norma resterà in piedi, per esempio, dico una cosa tecnica, ma l'articolo 17 del codice privacy, che in sostanza impone una verifica preliminare proprio presso il garante privacy per i datori di lavoro che vogliano fare dei trattamenti di dati che presentano rischi per la dignità o la libertà dei loro lavoratori, e quindi certamente la geolocalizzazione è tra questi. Quindi non tutto crollerà. Sì. Ecco, Bolognini, la posta elettronica può già oggi essere ad esempio letta o lo potrà essere grazie a questa norma? Ma anche oggi può essere letta la posta elettronica, l'importante è che ne sia data conoscenza, cioè sia data informativa ai lavoratori del fatto che in caso di necessità, quindi ci deve essere una necessità concreta di dover accedere alla posta elettronica aziendale del lavoratore, ecco, in caso di necessità anche oggi si può accedere, il superiore gerarchico, il collega, il datore di lavoro possono accedere eccezionalmente alla posta elettronica del lavoratore assente, impedito, comunque in sua sostituzione. È vietato per via interpretativa già dal 2007 dal garante l'accesso sistematico alla posta elettronica, ai contenuti della posta elettronica, quindi i casi in cui il datore di lavoro vuole accedere a priori, sistematicamente, senza una necessità oggettiva e concreta, e io credo che resterà tale l'interpretazione anche domani, perché un conto è poter tracciare gli eventi nel senso dei log, degli accessi, dei quantitativi di utilizzo di questi sistemi, che probabilmente diventerà più semplice e sarà anche più semplice utilizzarli per contestazioni disciplinari. Ma accedere sistematicamente a priori alla posta elettronica di un dipendente ha tutto il sapore della slealtà, della scorrettezza, a prescindere dal fatto che si modifichi questo articolo 4. È interessantissimo questo tema, abbiamo ancora qualche minuto per parlarne, ma dopo gli aggiornamenti per il traffico e poi ci ritroviamo ancora, Enrico, ancora dopo la viabilità. Il sabato del villaggio. E siamo ancora insieme e torniamo a parlare delle novità che riguardano il Jobs Act, in particolare in merito alla tecnologia, ma vorrei anche segnalare che lunedì in Cuore Denari con Nicoletta Carbone e con Deborah Rosciani si parlerà ancora di Jobs Act, in particolare però per quanto riguarda la disciplina dei congedi parentali, un altro argomento che interessa molto, di questo si parlerà appunto lunedì in Cuore Denari, Enrico. Sì, in effetti il Jobs Act è una riforma vasta, ci sono tanti argomenti, sicuramente ne torneremo a parlare, anche perché delle cose di cui stiamo parlando oggi non abbiamo certezza assoluta. Quando saranno legge, ne potremo discutere con maggiore chiarezza. Di sicuro, da tutto ciò di cui abbiamo parlato, e lo vorrei chiedere a Bolognini nell'ultimo minuto che ci rimane, è esclusa la videosorveglianza. Su quello bisogna sempre fare un accordo e chiedere il permesso. Sì, è esclusa la videosorveglianza, indubbiamente, quindi noi stiamo parlando di controlli operati su strumenti tecnologici, sono controlli a distanza, certo, ma non quelli con videosorveglianza. C'è un dubbio, c'è anche un altro dubbio che forse può interessare agli ascoltatori, e cioè quanto questa nuova disciplina, quindi questa libertà di controllare i lavoratori, si possa applicare anche ai datori di lavoro che consentono il cosiddetto bring your own device, cioè fanno usare per il lavoro gli smartphone privati, lo smartphone personale del lavoratore, oppure il suo PC personale. Ecco, quanto e come si potrebbe applicare questa disciplina a questi casi in cui il lavoratore usa propri strumenti? Grande punto di domanda. Allo stesso modo, alcuni lavoratori stanno già commentando, ma insomma, lo smartphone che mi viene dato dall'azienda, io lo pago in parte come benefit, e quindi voglio anche usarlo per fini personali. Sì, certo. Mi verrò controllato anche in quei casi quando lo userò per fini personali? Ecco, questi sono punti di domanda che quel testo di legge non risolve. Certo, dire che allora torneremo sull'argomento, è particolarmente interessante. Io ringrazio l'avvocato Luca Bolognini, presidente dell'Istituto Italiano per la Privacy. Grazie avvocato. Grazie. Enrico, noi invece ci ritroviamo il prossimo sabato, che sarà l'ultimo sabato del Sabato del Villaggio. Io ho già qualche idea per il prossimo tema. Cerchiamo una sorpresa. Cerchiamo una sorpresina, dai. Che può essere legata al mondo dei controlli a distanza. No, vabbè, non sveliamo niente. Però, adesso è il momento di andare al cinema. Hola. Gary Webb, San José Mercury News. Il mio fidanzato è in prigione per traffico di cocaina. Ha portato 4 tonnellate di cocaina nel vostro paese per conto del governo degli Stati Uniti. Può ripetere? Mi pare un film un po' tosto, questa regola del gioco. Uno dei film che escono questo fine settimana, perché certo anche in questo fine settimana di giugno c'è chi vuole andare al cinema a vedere qualcosa di nuovo e fresco. Fresco come l'aria condizionata del cinema. Allora, facciamoci subito consigliare da Franco. Franco, buongiorno. Ciao Marta. Sì, rifugiamoci nel fresco condizionato del cinema, che è sempre un bell'andare d'estate, quando fuori si schiatta. Sì. Come diceva la famosa pubblicità di Dan Peters, quando il sole ti spacca in quattro, noi non siamo a Chattanooga, Tennessee. Però voglio dire, quando fa caldo, un bel film. Tra l'altro qui i brividi ce ne sono questa settimana. Allora, ecco, perché diciamo la regola del gioco mi sembra un film tostino, dici tu. Sì, è un film che si richiama direttamente a quella stagione di Tutti gli uomini del presidente, dei Tre giorni del Condor, e questa è una storia dimenticata, una grande storia vera dimenticata, quella del premio Pulitzer Gary Webb, che negli anni 90 realizzò un'inchiesta che ebbe un'eco clamorosa, perché portò alla luce un traffico di droga di fatto portato avanti dalla CIA per finanziare con il narcotraffico i ribelli dei rivoluzionari sandinisti nicaragueni, oppure del Salvador, insomma di questi Contras, che qualcuno di voi non più giovanissimo ricorderà. Ecco, un film ben interpretato da Jeremy Renner come protagonista, che ha nel cast anche Paz Vega, una regia abbastanza solida, quella di Michael Cuesta, e che chi ha amato quei film con il giovane Robert Redford, insomma, non se ne pentirà. Hai detto anche brividi questo fine settimana. Io ho sentito tanti spot, ho visto tanti manifesti di Unfriended. Com'è? Assolutamente, guarda, è un film che tra l'altro è partito molto bene in sala nel suo primo giorno di programmazione, è stato secondo solo a Jurassic World, che sta facendo incassi che nessuno si aspettava così alti anche in Italia. Dietro Jurassic World, nei primi giorni di programmazione, c'era proprio Unfriended, che è il primo video, il primo horror via Skype, se vogliamo, nel senso che è il primo horror social, perché racconta la storia di una chat notturna di 6 amici del liceo che a un certo punto su Skype ricevono un messaggio di una compagna di classe, solo che lei si era uccisa un anno prima. Un film vissuto a livello registico tutto attraverso gli schermi dei computer, e quindi siamo a metà fra REC e Blair Witch Project, se vogliamo, no? Con una sorta di mockumentary che racconta questa storia. L'orrore c'è, la tensione c'è, pensate, il film è stato girato in un paio di settimane, tutto in un caseggiato dove in ogni stanza c'era uno dei ragazzi, dei giovani attori del film. Risultato veramente notevole per chi ama il genere, la regia di Levan Gabriaz, che è un 46enne georgiano di Tbilisi, che adesso con questo film è sbarcato in America. Devo dire che è un risultato con poco costo, però è un risultato davvero notevole. Per chi invece fosse un romanticone come me, so che c'è anche una commedia per chi proprio non vuole questi brividi. Sì, per chi non vuole questi brividi può rifugiarsi nel dramedy, no? Diciamo, con Teneramente Folle, film che intanto porta sullo schermo Mark Ruffalo, che comunque è sempre che è interessante un bel vedere, no? lo dico io da femmina, è sempre un bel vedere Mark Ruffalo. E al suo fianco Zoe Saldana, nei panni di una coppia che si è separata dopo che il padre, che lui, Mark Ruffalo, ha avuto problemi forti di esaurimento nervoso, di malattia mentale, e soprattutto questa coppia ritrova le figlie dopo un lungo periodo separate, il padre, che nel frattempo è andato sulla costa est e soprattutto è uscito dai suoi problemi di salute, dovrà di fatto da solo prendersi cura delle due eccentriche ragazze, che non gli renderanno il compito molto facile, ma insomma glielo faranno sentire di nuovo se stesso. È un film che alterna momenti di commedia vera, come dicevi giustamente tu, anche a momenti drammatici, però è il classico film appunto da coppia e che è da vedere, ripeto, per le interpretazioni degli attori che sono molto molto intense. Franco, per concludere, un accenno a quello che succederà invece oggi durante la Rosa Purpurea. Beh, e guarda Marta, ci sono due ospiti che voglio segnalare. Uno è il grande Ted Neely, il Jesus Christ Superstar del film originale, e poi avremo il regista Giancarlo Soldi, il regista di Nessuno Siamo Perfetti, che è un film, un documentario che esce da questa settimana, ma farà una sorta di uscita tour tipo rockstar, girerà nelle varie città giorno per giorno, e lo dico perché è molto interessante per tutti quelli che amano Dylan Dog, perché è un film, un documentario sulla figura di Tiziano Sclavi, quindi davvero due chicche per i nostri ascoltatori. Grazie Franco e al prossimo sabato. Grazie Marta, un saluto a tutti. Problema: in Italia si pubblicano 60.000 libri all'anno, 5.000 titoli al mese, 160 al giorno. Come faccio a scegliere quello giusto per me? Per andare sul sicuro, non perdere Un libro tira l'altro, di Salvatore Carruba. Ogni domenica, in mezz'ora, ti aiutiamo a orientarti nel grande universo della lettura, alla scoperta delle nuove uscite e dei grandi classici. Un libro tira l'altro, la guida sicura per chi ha fame di libri. Ogni domenica alle 6.30 e alle 22.30 su Radio 24. Se ti piace il Gastronauta e ti piace anche il panettone, non perderti la possibilità di vivere da vicino la diretta del mio programma domenica 28 giugno a mezzogiorno. Saremo proprio qui, nell'auditorium del gruppo 24 ore, durante la 2 giorni dedicata al panettone tutto l'anno, e ci divertiremo a festeggiare insieme l'arrivo dell'estate con il dolce simbolo di Milano. Prenota il tuo posto sul sito radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da... Con la rete Interplanet, il tuo business cresce alla velocità della fibra. Interplanet.it. Sono le 6. C'è un settore dell'industria italiana che fa muovere l'economia reale, trasporta la ricchezza, si muove al ritmo del paese. È il settore dell'autotrasporto, che fa arrivare nelle imprese, nei negozi, nelle case, tutto ciò che quotidianamente utilizziamo. Radio 24 vi accompagna in un percorso per conoscerlo meglio. Nei numeri, nei problemi, nelle opportunità, nelle imprese. Gli orari degli appuntamenti su radio24.it. Buongiorno, sono Martin Casogiovanni e vorrei un furgone Peugeot. C'è il nuovo Partner, con ben 4 metri cubi di carico e lunghezza utile superiore a 3 metri. Ragazzi, tutti dentro! Piano però! Nuovo Peugeot Partner, con motori Blue HD Euro 6, sensori Bluetooth, touchscreen e navigatore. A 320 euro al mese per 3 anni, con noleggio all'inclusive. In più, manutenzione ed assistenza garantite Peugeot. Peugeot. Scade il 30 giugno, salvo approvazione PSA Renting Italia. Fogli informativi in concessionaria o su peugeotprofessional.it. 7.30 precompilato è troppo complicato? Prenota il tuo appuntamento con Cafacli direttamente dal sito www.mycaf.it o telefonando al numero unico 199 199 730. Cafacli sarà responsabile di eventuali errori commessi in fase di compilazione e risponderà in prima persona alla successiva verifica fiscale. Certe cose è meglio farle in due. Per fare il 7.30 scegli Cafacli. Un euro. Fino al 2 luglio ogni 100 euro di spesa un euro ci regala 20 euro in buoni sconto. E con quelli ad agosto mi compro tutto quello che voglio. Che vuoi? Ai. Che vogliamo, amore? Dettagli, esclusioni e negozi aderenti su unieuro.it. Unieuro. Batte. Forte. Sempre. Che giornata. Workshop a Vienna. Meeting a Parigi. Amore, sì, finisco con Madrid e sono subito a casa. Con Register.it crei il tuo sito.eu a soli 90 centesimi e trovi clienti in tutta Europa. Register.it, il partner per il tuo successo online. Dolori muscolari, articolari, cervicali, stiramenti, strappi, contusioni, botte, distorsioni. Da oggi, per sciogliere questo scioglilingua, puoi scegliere Dicloreum Dolore in bustine da sciogliere in acqua. Agisce rapidamente contro infiammazione e dolore. Dicloreum Dolore, per tornare in azione. È un medicinale che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. La nostra società ha ancora potenzialità in Italia, ma all'estero molte di più. La mia è un'impresa sempre più micro. Lavoro solo con l'Italia da troppo tempo. Cerchi più fatturato all'estero? Comarc. Comarc ha già fatto crescere centinaia di imprese di ogni dimensione e settore. Un temporary export specialist lavora in azienda con te, ti porta gli strumenti e le competenze per crescere e il suo compenso segue i risultati. Chiama Comarc 800 123 640. Comarc. Globali si diventa. www.aziendedisuccesso.it. Io ho il clima. Pure io. Io ho il sistema multimediale touchscreen e la telecamera posteriore. Pure io. Io ho anche 5 porte al prezzo di 3. Pure io. E il navigatore in omaggio? Pure io. E sono anche una City Car Toyota. Pure io. Per le City Car Toyota, gli optional non sono optional. Solo a giugno, Aygo e Yaris benzina con 5 porte al prezzo di 3 e navigatore in omaggio. Gamma City Car da 100 euro al mese, TAEG 7,23 e le restituisci quando vuoi. Ti aspettiamo per una prova. Bing, Meteo News. Da domani si prevedono giornate roventi su tutta la zona euro, con possibile incremento delle quotazioni Nasdaq. Spread stabile nel pomeriggio, ma in serata ancora rovesci su Piazza Affari. Con il bello e il cattivo tempo, proteggiti con Bing. Con Bing Bank, ogni giorno è un buon giorno per fare trading. Per i tuoi investimenti, scegli lo specialista del trading online. Apri subito il conto. Messaggio pubblicitario. Fogli informativi su bing.it o chiama l'800 90 58 45. GIS, giornate italiane del sollevamento. L'unico evento italiano dedicato agli utilizzatori di macchine e attrezzature per il sollevamento, la movimentazione industriale e portuale e i trasporti eccezionali. La quinta edizione a Piacenza dal 1 al 3 ottobre. Per info sollevare.it. Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali. Abbiamo parlato tanto di cinema, di televisione, abbiamo parlato molto di tecnologie, perché le novità che riguardano le tecnologie nel Jobs Act sono di stretta attualità. Abbiamo cercato un po' di orientarci, un po' di capirne di più, ma abbiamo ancora un'ora insieme con il sabato del villaggio. Abbiamo la terza ora dalle 17 alle 18 con RadioTube e vediamo cosa ci occuperemo fino alle 17. La TV d'estate, si sa, offre molto meno, ma questi sono i giorni in cui scopriamo cosa succederà da settembre in poi. La lista nozze al supermercato e i sondaggi retribuiti nell'appuntamento con Maria Luisa Pezzali e i consumi e le nuove tendenze. I libri con gli imperdibili di Alessandra Tedesco e consigli per tutti, ma subito il nostro consueto appuntamento con quello che succede a Milano nel Fuori Expo. We're jamming, jamming, and I hope you like jamming too. Io ho aperto aperto il sito makemusicmilan.it e c'è un countdown che ci dice che mancano un giorno, un'ora, 50 minuti e 21, 20, 19, 18, eccetera, secondi a questa che è una sorta di festa della musica, perché si sa, il 21 giugno in molti paesi europei si festeggia la Fête de la Musique, la festa della musica, che era nata addirittura, se non sbaglio, nel 1982 dal ministro della cultura francese Jacques Lang. La Fête de la Musique è stata un po' esportata dappertutto, finalmente dall'anno scorso abbiamo anche noi il Make Music Milano, ne parliamo con il general manager Giorgia Fazzini. Buongiorno Giorgia. Ciao a tutti, buongiorno. Possiamo dirlo, Giorgia, che è la nostra festa della musica, possiamo dire che finalmente ce l'abbiamo? Finalmente ce l'ha Milano e ce l'ha anche l'Italia, devo dire. Perché in Italia in molte città succede la festa della musica da anni, quasi mai, quasi nessuna ha scelto questo modulo molto coraggioso, se vogliamo, che è quello un po' liberi tutti, cioè di mettere a disposizione nel nostro caso un centinaio di luoghi pubblici tra strade, piazze e parchi, e il primo che arriva e si prenota sul sito, che ti ringraziamo di aver segnalato, sceglie il posto e l'orario preferito e poi suona. Perché all'interno della Festa della Musica di Milano sarà dalle 18 alle 24, appunto ho recitato il countdown che c'è su makemusicmilan.it, manca poco. La città come un palcoscenico a questo punto. Sì, è il bello di fare i festival in strada. Chiunque di noi insomma ne abbia frequentati, che sia di letteratura, di musica, di filosofia, sa che vivere le città all'aperto insieme fa la città. Ti ho interrotto, ma ti ascolto volentieri. Mi stavi dicendo? No, la gioia di portare la musica in strada è anche quella di vivere Milano in una maniera diversa. Quest'anno con Complice Expo e all'incesto di Expo in Città, che sono le cose del comune, patrocinato dal comune, che accadono in città, si sta verificando molto, no? In questi sei mesi stiamo vivendo la città diversamente. Sì, c'è un certo entusiasmo che immagino che abbiate sentito anche voi, magari tra tutte le persone che hanno già aderito. Sì, devo dire che l'anno scorso era stato già incredibile, perché era comunque una scommessa. Mettere a disposizione della città e vedere se qualcuno avrebbe aderito. È un festival complesso perché i musicisti devono auto-organizzarsi. Esattamente come la Fête de la Musique, cioè poi noi diamo un pezzo di strada, diamo la comunicazione eccetera, però loro devono portarsi tutto, quindi quando l'adesione è così alta, e quest'anno abbiamo aumentato addirittura i numeri dell'anno scorso, avremo in una novantina di posti diversi in tutta Milano 160 performance, perché appunto sono ogni postazione divisa in due slot, 18-21, 21-24, quasi, anzi oltre un migliaio di musicisti. Per un festival del genere, per quello che comporta e per l'adesione che vediamo anche in questi giorni che stiamo consegnando i pass, no, per domani, è altissima, e questo secondo me è altamente significativo. Tra l'altro questo jamming che abbiamo ascoltato prima sarà un po' un filo conduttore a quanto mi hanno detto. Sì, questo è un piccolo giochino che ci siamo inventati con il nostro media partner più stretto, che è Onstage. Abbiamo proposto di scegliere una canzone fra 15 evergreen, diciamo, internazionali. L'abbiamo fatto durante l'ultima settimana di iscrizione, quindi un mese fa. Ha vinto jamming. E domani, tra le 18 e le 24, una ventina di partecipanti, con tutti quelli con loro insieme, perché ogni concerto praticamente sta avendo decine di persone coinvolte in realtà, farà jamming nella sua versione. Ne faremo poi un video di un montaggio generale, una specie di grande cover collettiva, e questo speriamo che sia molto divertente sia da fare il 21 che da fruire, diciamo, dopo il montaggio. Sono molto curiosa di intanto anche passeggiare domani e poi di sentire quale sarà il risultato. Grazie a Giorgia Fazzini, General Manager, lo dico bene, aspetta Giorgia che mi sono un po' incartata. Grazie a Giorgia Fazzini, General Manager di Make Music Milan, per essere stata con noi. Grazie Giorgia. Grazie a voi, buon sabato. Grazie, ricordo il sito makemusicmilan.it. Adesso c'è ancora il countdown, manca pochissimo. Beh, insomma, 16, 14 minuti e 41 secondi, tra poco ancora le indicazioni per chi sta viaggiando su strade e autostrade, poi ci ritroveremo insieme perché abbiamo ancora tre capitoli del nostro Sabato del Villaggio, insomma andiamo a sentire la situazione della viabilità e poi saremo ancora insieme. Bomi si quota su AIM Italia, info su bomigroup.com. Vi presenta il Sabato del Villaggio. E al Sabato del Villaggio è il momento dei libri. Chissà cosa ci ha portato oggi la nostra Alessandra Tedesco. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. Beh, stavo aprendo il microfono che stavo cantando ancora. Buongiorno Alessandra, che bella. Però tu hai una bella voce, canzone. Io ho una voce ancora un po' da ex laringitesca. Eh sì, non hai ancora, hai perso un po' la voce questa settimana. Allora... Ma sai, anche le conduttrici radiofoniche perdono la voce. Sì. Succede, sì, anche sì, gli angeli mangiano fagioli, mi viene in mente anche le conduttrici radiofoniche. Perdono la voce, ahimè. Allora, in questo blocco del Sabato del Villaggio speriamo che resista fino alla fine la voce di Alessandra Tedesco, sì, per dirci tutti i libri del momento, quelli di cui si parla o si parlerà magari. E infatti non è un caso che abbiamo messo questa canzone di Nina Simone, perché questa canzone ha un'importanza fondamentale in un romanzo che è uscito da poco, di cui si sta iniziando a parlare, ma vi assicuro sarà uno dei libri dell'estate, che si intitola Quando meno te lo aspetti, scritto da Chiara Moscardelli, pubblicato da Giunti. Chiara Moscardelli, oltre a essere insomma una donna veramente di un'ironia, di una simpatia contagiosa, è una scrittrice veramente veramente brava, perché riesce a mescolare appunto questa sua ironia con altri generi letterari. Libri che aveva scritto, Volevo essere una gatta morta, il titolo dice tutto. Era lei. Poi La vita non è un film, ma a volte ci somiglia. E in questi due romanzi precedenti la protagonista era lei stessa, era sempre Chiara Moscardelli. Stavolta invece, in questo Quando meno te l'aspetti, la protagonista, che era Marta, ha delle origini baresi. Giuro, non l'ho scelto per questo. No, ma lo guarda, se per il prossimo sabato, che è l'ultimo sabato del villaggio, mi tiri ancora fuori un libro che parla di Bari, Non è colpa mia, è i libri di cui si sta parlando in questo momento. La protagonista Penelope Stregatti è infatti una bambina che è nata e cresciuta a Bari, guarda un po', è un po' introversa, qui non c'è più niente che mi si riferisce, insomma, e ha una nonna cartomante. Lei che cosa fa? Si nasconde nell'armadio e ascolta tutti i fatti degli altri, praticamente i fatti che gli altri raccontano alla nonna. E sua nonna spera che San Nicola, che ti devo dire è il protettore delle single, delle ragazze da marito, riesca insomma a farla poi sposare. In realtà poi troviamo Penelope Stregatti a Milano, oggi 36 anni, una laurea, master, parla 5 lingue, eccetera, e lavora in una multinazionale di pannolini come addetta stampa. E poi nel tempo libero scrive test e oroscopi sessuali per una rivista che si chiama Girl Power. Insomma, insieme a questa storia un po' da Bridget Jones si intreccia poi una sorta di spy story, perché un giorno lei investe con una bicicletta un tipo che si chiama Alberto. Dopo qualche giorno vede che questo tipo diventa l'amministratore delegato della sua azienda, ma con un altro nome, come Riccardo Galanti. Che mistero ci sarà qui sotto? Penelope Stregatti cercherà di risolverlo. Mi incuriosisce molto. Poi tu hai parlato di oroscopi, allora ti dico che sto leggendo, mi sono portata in questi giorni a Taormina il romanzo che mi hai consigliato, La la guida astrologica per cuori infranti, quello di Silvia Zucca. Sì, no. È lungo, non l'ho ancora letto tutto, però mi sto divertendo. È uno di quei bei romanzoni di Chiclet, carini, sorridenti, per passare un po' di tempo piacevole. Ci vuole, guarda, questo della Moscardelli, quando meno te l'aspetti, ve lo portate in spiaggia, ve lo sportate per il weekend. È consigliato, secondo me, a chi vuole divertirsi, però in modo anche intelligente. Ecco, questa cosa mi piace molto. Libri di cui si parla, libri sulla bocca di tutti. Guarda, c'è un libro di cui si sta parlando molto, però cambiamo completamente genere, e si intitola Mi sa che fuori è primavera, scritto dalla giornalista Concita De Gregorio, pubblicato da Feltrinelli. È un romanzo che prende spunto da un fatto vero. Non so se ti ricordi, nel gennaio del 2011 quelle due gemelline bionde, figlie di una italiana e di un tedesco, che erano scomparse, nel senso che il padre le portò via dalla Svizzera, lui poi si suicidò e delle due bimbe non si è saputo più nulla. La madre di queste bambine, Irina, ha raccontato, lei ha scelto proprio di raccontare la sua storia, aveva ricevuto naturalmente tantissime richieste che ha rifiutato, ha voluto raccontare la sua storia a Concita De Gregorio, che l'ha narrata in forma proprio di romanzo, liberamente ispirato a quella storia. E quindi attraverso una serie di lettere che Irina scrive, idealmente, non so, a sua nonna, ai suoi amici, al procuratore che ha seguito l'inchiesta, riusciamo a conoscere la sua versione dei fatti. Come per esempio suo marito Mattias era un uomo che aveva iniziato a controllarla in tutto, le lasciava questi post-it in cui dava le indicazioni su come doveva vestire le bambine, come doveva chiudere la porta di casa. Insomma, era una persona che iniziava a dare qualche problema dal punto di vista psicologico, ma insomma purtroppo lei non se n'è accorta. E questo è un romanzo che dà grande speranza, perché lei racconta di come continua a vivere con la grande consapevolezza di aver perso le figlie, anche se appunto lei non sa dove siano queste bambine. Lei si è ricostruita una vita, adesso ha un nuovo compagno, vive in Spagna e soprattutto vuole combattere contro questo senso di colpa che tutti le attribuiscono, come se una volta che ha perso i figli lei non potesse più vivere. Invece lei è comunque una donna gioiosa e piena di vita, quindi Mi sa che fuori è primavera è un romanzo bello, veramente bello, toccante, emozionante, che io consiglio un po' a tutti, ma soprattutto a chi deve ricominciare a vivere dopo grandi difficoltà. Beh, è un impegno importante, mi piace molto. Voltiamo ancora pagina. Appassionati di gialli, te lo chiedo perché weekend estivi, insomma è sabato pomeriggio, chi è partito forse, chi voleva partire forse è già partito, però magari c'è qualcuno che sta girando per le librerie per prepararsi per le prossime partenze, e chiunque si porta un giallo, dai. Sì, sì, è il genere più letto in Italia, il giallo, non solo d'estate naturalmente. Questa volta ti consiglio più di un romanzo, ti consiglio un autore che si chiama Dario Crapanzano. Lui ha fatto il pubblicitario per una vita, poi a 70 anni ha iniziato a scrivere gialli, un po' come ha fatto Camilleri, per intenderci, e i suoi sono un po' gialli alla Camilleri, se vogliamo dire così, in parte tranquillizzanti. Sono ambientati tutti a Milano negli anni 50 e il protagonista seriale è il commissario Arrigoni, che sta nel commissariato di Porta Venezia, appunto a Milano. Crapanzano dice sempre che lui è il giallista delle portinaie, nel senso che in ogni romanzo mette una portinaia, perché sono utilissimi alle indagini, raccolgono le confidenze, insomma sanno tutto di tutti. Alcuni titoli, un paio di titoli di Dario Crapanzano: Arrigoni e l'assassinio del prete Bello, oppure Arrigoni e l'omicidio di via Vitruvio, pubblicati tutti da Mondadori. A chi li consigliamo? Beh, a chi ama i gialli alla Camilleri. Hai detto Camilleri? Vabbè, questa ce l'eravamo preparata, lo dobbiamo confessare, era già pronta la sigla di Montalbano. Siamo veramente due, non posso dire la parola che ho pensato, due scemettine, due diciamo scemette, così, sì. Due scemette. Allora, perché Montalbano? Guarda, ti consiglio un libro radical chic. Sai che ogni sabato ormai stiamo dando un consiglio per le persone che si sentono un po' intellettuali, e noi gli diciamo cosa leggere, cosa devono aver letto per fare, insomma, una bella figura in società. Il libro si intitola La memoria di Elvira, pubblicato da Sellerio. Sono le testimonianze di tanti scrittori che hanno pubblicato con la casa editrice siciliana e raccontano insomma la vita, il rapporto che avevano, l'esperienza con Elvira Sellerio, che è stata la fondatrice della casa editrice insieme al marito e insieme a Sciascia. E Camilleri è stato proprio scoperto da Elvira Sellerio, altrimenti forse non avrebbe neanche pubblicato il Montalbano. Ti dico due parole che dice Camilleri della Sellerio. Dei grandi editori leggendari italiani, Elvira possedeva il fiuto. Le bastava sfogliare le prime pagine di un dattilo scritto per sentire la presenza di un autore autentico. Inseguì Bufalino come un cane da tartufi, sino a fargli tirare fuori dal cassetto la diceria dell'untore. Ah, che meraviglia! E a proposito di sentire, ti confesso una cosa: io adoro i libri di Sellerio perché secondo me sono quelli con la carta più bella da toccare. È vero. E in un mondo di ebook a me questi libri di Sellerio piacciono. Tocchiamo tanto la carta alla radio. È vero, liscia, bella, sono liscia. Belli da accarezzare. Chiudiamo, Alessandra, con qualche consiglio. Non so, ragazzi, abbiamo ancora ragazzi Expo. Dai, ragazzi, ce li facciamo Expo, stare. Velocemente, il libro di cui si sta parlando di ragazzi si intitola Il libro di Julian, scritto da R. J. Palacio, lei è una donna, Raquel J. Palacio, pubblicato in Italia da Giunti. È uno spin-off di Wonder. Allora, Wonder era un libro per bambini e ragazzi uscito 2 anni fa, grande successo, 100.000 copie in Italia, 3 milioni di copie nel mondo. Era la storia di un bambino che aveva una malattia che gli deformava il volto. Wonder è appunto il racconto del suo primo anno alle scuole medie. Fino a quel momento infatti aveva studiato a casa, era stato vittima di bullismo, ma insomma lui era riuscito a risolverla col sorriso sulle labbra. Adesso troviamo lo spin-off, cioè la stessa storia raccontata dal bullo, da Julian, che è stato cacciato dalla scuola, viene mandato a Parigi dalla nonna e la nonna gli racconta, la nonna ebrea, di quando fu salvata da un bambino storpio. E quindi, come dire, è un po' una nemesi di quello che Julian ha vissuto. Quindi il libro di Julian sta dominando la classifica di bambini e ragazzi, diciamo dai 9-10 anni in su. L'hanno un po' definito il nuovo piccolo principe, pubblicato da Giunti, quindi si può leggere sia Wonder che il libro di Julian. Chiudiamo con i nostri consigli Expo, perché si parla tanto di Milano, si parla di Expo anche nei libri. Sì, anche nei libri. Allora, per conoscere i milanesi, io ho scelto questo libro molto divertente che arriva in realtà dal web, perché è nato prima sul web, Il milanese imbruttito, pubblicato il milanese da imbruttito, famosissimo. Allora, facciamo degli esempi così ci prendiamo un po' in giro. Il milanese imbruttito non ha impegni, ha sbattimenti. È vero. Il milanese imbruttito durante la settimana organizza il weekend, durante il weekend organizza la settimana e in entrambi i casi se ne va in sbattimento. Ah sì, enorme sbatti. Questa la trovo splendida. Al bar ordina il caffè con la bustina di zucchero già in mano e si è anche già preparato l'euro per pagare al volo. I milanesi bevono sempre il caffè in piedi, noi meridionali ci sediamo, vabbè, questa è una questione di abitudine. Anche in Brianza ci si siede. Ah, ci si siede. Sì. E infine, per chiudere, il milanese imbruttito, fra il dire e il fare c'è di mezzo lo sbatti. Ah, tantissimo sbatti. Grazie Alessandra per questi consigli. Il problema è che adesso, cioè, sono troppo in sbatti perché li voglio leggere tutti. E guarda, ti regalo qualcuno anche perché ci sono degli adesivi che ti posso regalare. Ti regalerò quello. Oh, ma ce la fai? Ah, fantastico, perfetto. Alessandra, grazie, al prossimo sabato. Ciao a tutti. State ascoltando un programma offerto da Bomi. Si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Il sabato del villaggio. Eccoci con l'ultima mezz'ora del nostro sabato del villaggio. C'è un ascoltatore che su Twitter, l'account è Epic Fail, però chiocciola Giuseppe Cernuzzi, che mi dice, mi chiede, posso dire due parole su Letti di Notte? Ma certo che sì, hashtag Letti di Notte, una bella serata, la sera appunto, questa sera il 20 giugno, era nata nel 2012 con Marcos e Marcos, salutare l'arrivo dell'estate in libreria, una grande festa della lettura, 50 editori, le biblioteche aperte, 200 librerie, un bel po' di festival, bello, la notte bianca del libro dei lettori, mi fa molto piacere segnalarla. Bravo Epic Fail, che non è, questa volta non è stato un Epic Fail, per avermela ricordata, per avermela segnalata. Abbiamo parlato di libri con la nostra Alessandra Tedesco, adesso però un altro capitolo del nostro Sabato del Villaggio, perché è il momento di tutto quello che riguarda i consumi. Going to the chapel and we're gonna get married. Going to the chapel and we're gonna get married. We are really love you and we're gonna get married. Going to the chapel of love. Beh, è il momento appunto dei consumi, delle nuove tendenze, ma anche delle strategie anticrisi. Siamo in zona matrimonio, perché il mese delle spose però è finito. Buongiorno Maria Luisa Pezzali, ormai è giugno, basta sì. Spose. Beh, insomma, andiamo anche oltre, come dire, gli stereotipi sul periodo. Hai ragione, spose d'estate, spose d'estate. Nozze. Ci sono dei bei vestiti anche da mettere d'estate. Infrangiamo i tabù, Marta, ci piace. Buon pomeriggio innanzitutto. Buon pomeriggio Maria Luisa. A tutti, sì, perché in realtà torniamo su un tema che abbiamo già trattato nei mesi scorsi. Ci torniamo perché segnaliamo un'iniziativa importante in tema appunto di nozze. Parliamo dei concorsi, leva di marketing tradizionale usata da sempre dai brand. Cos'è cambiato? Prima, l'abbiamo detto la scorsa volta, ci offrivano viaggi da sogno, le pellicce, diamanti, le pellicce, mi ricordo. Crociere. Sì. Adesso invece, segno dei tempi e direi anche dei consumi essenziali, responsabili, eccetera, ci vengono in aiuto, ci pagano la spesa, ci pagano il mutuo, in certi casi abbiamo raccontato tutte le iniziative, addirittura adesso c'è chi apre la lista nozze in tema alimentare, la lista nozze al supermercato. Fantastico. L'idea è di una insegna della grande distribuzione storica in Italia, parliamo di CRAI, il direttore marketing Mario Laviola in collegamento con noi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio, che bella questa idea. Come vi è venuta? Ci è venuta, l'idea in sé è molto semplice, ci è venuta ascoltando quello che ci chiedono i nostri clienti. Noi abbiamo la fortuna di condurre diverse ricerche, di parlare con appunto i nostri clienti, e tra le varie cose quello che ci chiedono è, a parte ovviamente i prezzi classici nei negozi, di dare delle cose concrete su delle cose concrete della vita di tutti i giorni. Da qui l'idea di agganciarci al matrimonio. Ormai quando ci si sposa molto spesso magari si convive da qualche anno e si ha quasi tutto, magari eccetto il viaggio di nozze, quindi le agenzie di viaggio ci sono, e perché no la spesa di tutti i giorni. Da lì l'idea di fare appunto la prima lista nozze alimentare. Abbiamo creato un portale su cui gli sposi possono inserirsi, loggarsi, inserire la loro foto, la loro storia, mandare a tutti gli invitati, gli amici, il loro matrimonio, la loro lista nozze, e che si concretizza in buoni spesa che poi gli sposi, fidelizzati nel loro negozio, possono spendere nei successivi 2 anni. Lista nozze a cui anche noi di CRAI ovviamente facciamo un regalo agli sposi novelli. Quindi cerchiamo di dare una cosa concreta, semplice, speriamo, concreta, semplice e perché no anche un po' innovativa, ecco, dai. Quindi utilizzabile nel supermercato vicino a casa, dove normalmente si va a fare la spesa. Esattamente, di fatto i regali poi verranno trasmutati in buoni spesa da 20 euro che verranno consegnati direttamente alla coppia di sposini, che andranno e potranno spenderlo nel proprio supermercato di fiducia, su cui appunto noi come CRAI cercheremo e daremo anche il nostro contributo come regalo. Per noi è molto importante, questa è una delle ultime iniziative, è molto importante dare ai nostri clienti qualcosa. Non è un concorso, tra l'altro, perché è un'attività che è appunto partita da pochi giorni e che starà fuori, diciamo, in continuità, non ha una sua scadenza. Quindi appunto l'unica scadenza sono i 2 anni dal ricevimento di questi buoni, sì, degli sposini. Bello, sì, la spesa fatta per 2 anni. Bello, mi piace come idea. Bello, che tipo di riscontro state avendo? Allora, a livello di mediatico devo dire che la cassa di risonanza è subito partita molto veloce, nei negozi ovviamente siamo partiti da pochissimi giorni, per cui è un po' presto per dirlo. Le dico che la nostra rete vendita è entusiasta di questa iniziativa, noi siamo un canale di prossimità, quindi inserito anche nelle piccole città, nei piccoli paesini, e questa attività crea un contatto territoriale molto forte, quindi siamo molto fiduciosi, ci aspettiamo sicuramente il successo dell'iniziativa. Diciamo che se Buongiorno si vede dal mattino, la cassa di risonanza che si sta ottenendo, grazie per esempio anche a voi in questo momento, insomma ben dispone sul successo del progetto. Ovviamente lo abbiamo anche testato facendo delle ricerche di mercato con i nostri clienti, con i consumatori, e quello che ne è emerso come feedback è veramente molto molto apprezzato, quindi incrociamo le dita. Io sono contento perché fare attività che danno qualcosa di concreto ai clienti, oltre alle classiche promozioni, secondo me è una strada in questo momento di crisi molto apprezzata. Beh, sicuramente un'iniziativa destinata a fare scuola. Una battuta finale, abbiamo pochissimo tempo, io mi sono inventata una definizione, welfare marketing in questo caso, le piace? Mi piace molto, abbiamo appena terminato un concorso legato al mutuo e all'affitto e abbiamo terminato un altro concorso che regalava ai fortunati vincitori di questo concorso la fornitura di un anno di pannolini gratis, quindi mi trovo molto d'accordo. Beh, ottimo, davvero, segno dei tempi, però mi pare anche piuttosto saggio, una strategia piuttosto saggia. Grazie, grazie davvero tanto di essere stato con noi, a presto. Grazie, grazie a voi, arrivederci. Maria Luisa, siamo sempre in tema di consigli anticrisi, allora, perché sono nuove tendenze, ma appunto anche consigli anticrisi, chiamerei in causa a questo punto la nostra sempre superesperta. Lei, so Cristina. Che c'è, sento che c'è, buongiorno Cristina Lazzati. Buon pomeriggio a tutti, allora, eccoci qui. Che dritta ci dai questo sabato? Allora, mi è piaciuta molto, devo dire, questa cosa della lista nozze di Cray, perché sì, non potevo dirlo con lui in onda, però spero che anche altre catene lo imitino. Adesso non era carino dirlo a lui, però speriamo che lo imitino in tanti, perché è una bella idea. Sì, devo dire che in questo momento, anche per attirare di nuovo nei negozi i giovani, perché bene o male le coppie che si sposano sono comunque affrontano una serie di difficoltà che noi non abbiamo dovuto affrontare per nostra fortuna, ed è giusto anche, come dire, che un po' le catene inizino anche a guardare a quelle che sono i reali desideri delle coppie, che è far la spesa con un pochino più di leggerezza. Comunque eccoci qui, oggi vi parlerò dei sondaggi, i sondaggi online, e i sondaggi online di per sé ce ne sono tanti, però ci permettono anche di guadagnare qualche soldino. Nessuno si mette in testa di diventare ricchi con i sondaggi online, però obiettivamente se vi piace condividere le vostre opinioni e magari anche un po' sentirvi parte di un gruppo che influenza magari le marche, magari i prodotti, le linee di in lancio, eccetera eccetera, può essere anche un'esperienza interessante. Come si fa? Allora, tanto per incominciare, ci sono una serie di siti che offrono questi sondaggi a vari pagamenti, nel senso che con 30 centesimi per un sondaggio che va via veloce, un po' di più nel momento in cui invece il sondaggio porta via tempo. Ci sono, ne cito qualcuno, così almeno se qualcuno se lo vuole appuntare, sono Mondo di Opinione, che è un sito totalmente italiano, Toluna, Nielsen Net Rating, Global Test Market, Brand Institute, My Survey, Market Agent, e mi fermo qui perché di fatto sono molti. Quelli che vi ho citato sono più o meno quelli anche più seri, che poi in maniera continuativa offrono. Cosa bisogna fare? Bisogna semplicemente iscriversi dando un'email. Alcuni di loro, la maggior parte, manda poi delle sorte di remind, di recall, dicendovi occhio che c'è fuori un nuovo sondaggio se vuoi partecipare. Chiaramente vi si chiede qualche dato, perché giustamente, perché vengono fatti questi sondaggi, sono in linea di massima, come dicevo prima, per le aziende, per testare dove mandare, dove sviluppare nuovi prodotti, dove c'è più interesse, quindi insomma classici sondaggi di opinioni, ricerche di mercato. Quindi di fatto qualche dato serve, uomo, donna, età, eccetera eccetera. Che cosa? Di solito non arrivano soldi, bisogna veramente farne tante tante tante per poter avere dei buoni proprio in denaro. In linea di massima si regalano dei buoni acquisto, che possono essere nei negozi, quelli che bene o male frequentiamo tutti, IKEA, Coin, piuttosto faccio qualche nome che ho guardato poc'anzi, ad esempio offre Tuluna. Di fatto c'è anche la possibilità in alcuni casi di accedere, non so, prendere i nostri punti e tentare la fortuna, perché su vari siti ci sono anche, come dire, la possibilità di vincere il tablet, le classiche cose che si regalano, cioè che si regalano, che si mettono in lizza e che tutti noi magari un po' desideriamo, però magari non vogliamo fare quella spesa lì in questo momento. In linea di massima, quindi, diciamo che si guadagna sui 15-20 euro più o meno quando lavorando in maniera continuativa. Quindi, come dicevo, non sono soldi che cambiano la vita, non è sicuramente un lavoro, anzi, se posso permettermi, consiglio a tutti di stare un po' lontani invece dai siti che vi dicono fai questa cosa e guadagnerai 3.000 euro al mese, perché in linea di massima non è vero, anche perché se fossero tutti così facili, facile guadagnare soldi, esatto, non staremmo a fare altro. Però questo è un modo carino per entrare, anche per dire la propria, perché secondo me anche nel mondo del privato e non solo del pubblico è necessario che anche noi consumatori, acquirenti, shopper, chiamiamoli un po' come vogliamo, possiamo anche in qualche maniera dare un indirizzo, se vogliamo dei prodotti nuovi con delle cose diverse eccetera, partecipando a questi sondaggi in fondo la nostra opinione prende anche un valore, anche come dicevo, pecuniario. Mi piace questa cosa di dire la propria sui prodotti che consumiamo tutti i giorni. Grazie Cristina Lazzati per essere stata con noi, al prossimo sabato. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao, a presto. Maria Luisa, invece l'appuntamento con te domani pomeriggio. Domani come alle solito. 15, essere a avere. A presto allora anche a te, Maria Luisa, al prossimo sabato. A tutti, un saluto, ciao. Il sabato del villaggio. E questo è l'ultimo spicchio del sabato del villaggio in diretta su Radio 24, non che poi vi abbandoni perché ancora abbiamo un'ora per stare insieme con RadioTube dalle 17 alle 18 insieme a Daniele Bellasio, con tutto il meglio della rete e dalla rete, per parlare un po' di quello che è successo questa settimana. Adesso però nel sabato del villaggio è sempre il momento dei nostri liberi consigli per il fine settimana. Abbiamo anticipato che avremmo parlato di TV. La televisione d'estate, ai noi lo sappiamo, sonnecchia sempre un po'. Però è un momento di bilancio, è un momento di bilancio per capire dove è andata quest'anno la TV e per capire cosa succederà la prossima stagione. Siamo già preparati perché possiamo già capire quali saranno le tendenze, quindi non ci coglierà impreparati quello che succederà da settembre in poi, e abbiamo anche un ospite per parlarne insieme, il collega del Sole 24 Ore, Andrea Biondi. Ciao Andrea. Ciao, ciao, buonasera a voi. Che bello, finalmente ti posso coinvolgere al sabato del villaggio, perché l'altra mattina io subito l'ho visto, ho visto che l'hai twittato, ma non riuscivo ad aprire il link, ero disperata perché ero molto curiosa di leggere quello che hai scritto sul Sole di giovedì 18 giugno, una stagione TV a misura di Ammiraglie che ci ha un po' raccontato, fatto un po' il bilancio di quello che è successo in questo anno televisivo, in questi giorni in cui ci vediamo, lo diciamo agli ascoltatori, ci vediamo sempre io e te, Andrea, alle presentazioni dei palinsesti della prossima stagione. È vero, molto fermento. Eh sì, perché adesso così settimana per settimana si scoprono le carte e tra poco parleremo della presentazione che c'è stata questa settimana. Voglio leggere però le prime tre righe di questo pezzo, Andrea, che tu hai scritto l'altro giorno. Crescono le ammiraglie, gli eventi live sono trainanti, lo sport si conferma fra le prime scelte. Quindi questa è stata l'impronta generale di questa stagione della TV italiana. Sono soprattutto sport ed eventi live ad attirare il pubblico ed è appunto, come diceva il titolo, una stagione TV a misura di Ammiraglie. Quindi Rai 1 e Canale 5 su tutti. Rai 1 e Canale 5 su tutti, sì, quest'anno sono andati particolarmente bene proprio loro. Appunto per questo hanno trainato gli eventi live, ha trainato lo sport. Devo dire la verità, alla fine è anche vero che si sono consolidate alcune tendenze. La tendenza, per dire, della crisi dei talent. questo insomma in qualche modo della crisi dei talk show, questo in qualche modo è stato evidente anche quest'anno, a parte voglio dire qualche fiammata in prima serata per virus o quinta colonna, soprattutto per dire gli altri talk show hanno comunque sofferto della crisi, che è già evidente sicuramente dall'anno scorso e forse anche da un paio d'anni, cioè ormai ci siamo dimenticati come dire quelle vette di audience di share del 20% che c'erano a ridosso dei momenti chiave della politica italiana. Italiani forse un po' stanchi di sentir parlare di politica e forse anche personaggi meno brillanti, meno pittoreschi, chissà. Può essere anche questo. Devo dire che mi ha incuriosito anche una sostanziale tenuta dei talent, questo è vero, una sostanziale tenuta dei talent, alcuni programmi come Amici, Tale Quale Show, Tu Sì Che Vales, insomma hanno avuto un gran seguito e mi hanno incuriosito. Dall'altra parte devo dire che un'altra tendenza positiva si è verificata con la fiction, che è stata soprattutto un cavallo di battaglia di Rai 1. Però anche Mediaset con Il Segreto ha avuto il suo seguito. Detto questo, però, come dire, questo spiega un po' quella che sarà secondo me la tendenza per l'anno prossimo. Lo sport, gli eventi live risultano essere sempre più trainanti, cioè parlando con gli addetti del settore, parlando con i direttori di rete, è una cosa che un po' si percepisce. Ed è una cosa che un po' si percepisce ed è anche legata forse a tutto quello che succederà l'anno prossimo, perché non dimentichiamolo. Dimenticato che la TV dell'anno prossimo probabilmente sarà molto diversa dalla TV di quest'anno, anche per l'avvento a ottobre che ci è stato annunciato di Netflix. Ormai è una parola che ripetiamo spesso, Netflix, che finalmente arriva. Bisognerà vedere qual sarà l'impatto, perché effettivamente il pubblico italiano, le TV connesse ancora non sono tantissime, però è un momento in grande evoluzione, sia per quanto riguarda l'infrastrutturazione in banda larga, quindi la possibilità di avere la fibra a casa e quindi la possibilità di vedere i programmi TV anche in una determinata modalità HD, sia per quanto riguarda anche proprio le possibilità che ci sono, non chiamiamolo più palinsesto, però le offerte che ci sono, sia Premium sia Sky, hanno messo in campo delle offerte on demand, Premium Online, Sky Online, ed è un momento in cui bisognerà vedere come evolverà la situazione, senza dimenticare che domani e che l'anno prossimo, cioè a partire da settembre, ci sarà un cambio storico, cioè la Champions League solo su Mediaset e non su Sky. Ne abbiamo parlato molto sabato scorso quando c'è stata la presentazione appunto dell'offerta di Premium. Questa settimana invece è stato il momento degli annunci per quanto riguarda il mondo Discovery. Ci è andato alla conferenza stampa il nostro Adriano Palazzolo e ha parlato con Laura Carafoli, che è Vice President Content and Programming, cioè il responsabile della programmazione delle produzioni originali di tutti i canali del gruppo Discovery. Oggi abbiamo presentato due grosse novità. Una decreta l'ingresso definitivo nel mondo dell'OTT, l'over the top, quindi di quello che è il servizio on demand. È tutto gratis, quindi anche molto innovativo questo approccio. E dall'altro invece è in qualche modo l'arrivo, lo sbarco in quello che è l'arena della TV generalista, che sembra qualcosa rivolto al passato, ma in realtà è completamente ancora contemporaneo. Le conferme e le novità dei canali del gruppo Discovery a partire dall'autunno. Le conferme più importanti, tanti direi, riguardano Real Time, torna Bake Off, la terza stagione, quest'anno sono addirittura 14 puntate e si sdoppia perché appena finita la stagione dei grandi parte Bake Off Junior e questo per noi è molto importante. Ritorna anche Alta Infedeltà, seconda stagione, ci sta regalando dei numeri incredibili, è anche diventato un fenomeno social molto importante. Grandi novità ci sono perché su Real Time per la prima volta faremo un dating show con lo studio molto ambizioso che si chiama Take Me Out, un formato di Fremantle, e quindi in qualche modo ci stiamo avvicinando anche a quelli che sono i programmi di intrattenimento più larghi e questa cosa ci fa molto piacere. Per D-Max abbiamo delle conferme, quindi torna Chef Rubio con un TBSunti 3, la novità è che va all'estero, questo perché è diventato un fenomeno anche all'estero, soprattutto in Germania, e la grande novità è una produzione originale che si chiama Lady Ferro, cioè una donna fortissima, un carattere incredibile che gestisce il più grande sfasciacarrozze di Roma, diventerà un personaggio di culto, come sono personaggi poi Larger Than Life di D-Max. Focus torna la seconda stagione di Mettiti a Focus, una produzione che cerca delle facce, dei talenti in grado di raccontare la scienza, ma non solo, sul canale. Quindi siamo in giro per l'Italia e il canale si conferma uno dei canali più amati. Ci tengo molto a dire anche qualcosa di Giallo, perché Giallo, a parte che cresce quasi del 30%, quindi un canale che ci dà grandissime soddisfazioni, arriva The Missing, che è la serie di BBC che è diventata un fenomeno di culto, soprattutto amata da pubblico ma anche dalla critica. Racconta in 8 puntate la storia di un bambino scomparso, e poi tornano altre serie di riferimento come Law & Order, nuova stagione mai viste. Eccole qui le novità del gruppo Discovery. Andrea, abbiamo ancora un minuto. Cosa pensi di questo gruppo che è sempre più pesante in Italia? Questa sarà un'altra incognita della stagione. Bisognerà vedere l'impatto di Discovery, che è sul canale 9 del digitale terrestre, avendo acquistato DJ TV dal gruppo L'Espresso. Bisognerà vedere, perché forse potrà conquistare una fetta di telespettatori della TV generalista che quei determinati prodotti di Discovery finora non l'hanno mai visti. Però, come dire, chiudo il cerchio riguardo allo sport e al live dicendo che poi alla fine, fra i 10 programmi più visti della stagione, c'è il Festival di Sanremo, ci sono le due partite di semifinale della Juve e questo insomma è in qualche modo stata il piatto forte della TV per quest'anno. Quindi poi alla fine la gente ha bisogno e ha voglia di vedere sempre di più questo sulla TV generalista, e vediamo se con questo la TV generalista saprà controbattere alla sfida che viene da Netflix e dalla TV on demand del futuro, come la chiamano. Andrea, hai detto Festival di Sanremo, mi sa che martedì sera io e te ci vediamo alla presentazione dei palinsesti Rai, sicuramente. Lo abbiamo ormai detto a tutti. Eh sì, ci vedremo lì e scopriremo soprattutto, spero, che ci sveleranno se Carlo Conti ha accettato o meno il prossimo festival. Insomma, questa sarà la notizia che noi ci aspettiamo per martedì. Vedremo. Grazie ad Andrea Biondi del Sole 24 Ore per essere stato con noi. Grazie Andrea, alla prossima. A voi, alla prossima, grazie. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, perché il momento del giornale radio delle 17, ma io vedo già al di là dal vetro che è arrivato Daniele Bellasio, eccolo lì che mi sta facendo ciao dalla regia. Adesso lo faccio entrare, perché dopo il GR delle 17 è il momento di ritrovarci insieme con l'attualità della rete, e dalla rete sarà il momento di RadioTube.